Oggi presentiamo due rassegne ARCI che ormai sono consolidate, possiamo definirle consolidate: Montagnola Public, che si svolge appunto all'interno del Parco della Montagnola in collaborazione con il Circolo Millennium e Arcadia, e poi la rassegna di Porta Pratello, un po' più giovane, però anche quella è una rassegna che ormai è riconosciuta a livello cittadino e gestita dal Mercato Sonato. Sono due rassegne che io considero comunitarie, aperte, accessibili, che sono costruite con lo stile che è quello dell'ARCI, costruite da tante associazioni, da tante realtà, per cui sia in Montagnola che a Porta Pratello avremo tante collaborazioni con altre realtà, associazioni cittadine, con altre realtà culturali. A Porta Pratello quest'anno ad esempio ci sarà una rassegna cinematografica organizzata da OpenDDB da una parte, ci sarà per esempio questo fine settimana un bellissimo festival su migranti femminista, per cui insomma l'idea è quella appunto di raccogliere tante voci, tante idee, tante esperienze che crescono e continuano a vivere all'interno del nostro territorio. Ci sarà spazio anche naturalmente per la musica, per la letteratura, ci saranno presentazioni di libri e soprattutto, come lo scorso anno, ci sarà la festa dell'ARCI in Montagnola. Il filo conduttore, quindi, nella sua eterogeneità di luoghi e di proposte è quello di un'aggregazione che sia intergenerazionale e allo stesso tempo motivo anche di qualità nell'approfondimento artistico. Sì, chiaramente c'è molta attenzione alla qualità artistica, alla qualità culturale, basta insomma vedere anche il programma di Montagnola, nomi come quello di Cristiano Godano, il nome di Gemon, insomma ci saranno diversi artisti importanti, quindi sicuramente un'attenzione alla qualità culturale, però allo stesso tempo un'attenzione anche al tema dell'accessibilità e quindi la capacità di essere appunto aperti, attenti anche ai generi, alle generazioni, e quindi questa insomma diciamo che è la caratteristica fondamentale. Durante la festa dell'ARCI tra l'altro ci saranno anche dei momenti di approfondimento, uno per esempio sui festival culturali. L'ARCI nazionale, insieme a oltre 60 organizzatori di festival ARCI, ha pensato di costruire un manifesto su che cosa è oggi un festival ARCI, cosa dovrebbe essere, non un eventificio, quindi non un'attenzione semplicemente al biglietto, all'evento, ma proprio invece un'attenzione alla sostenibilità, alla qualità del lavoro dentro i festival, alla qualità anche del volontariato dentro i festival e soprattutto anche un'attenzione alla qualità culturale. Un altro appuntamento che secondo me sarà molto interessante è quello del 14 giugno, dove avremo ospite Cristian Raimo, che farà una cosa molto carina dedicata proprio alla partecipazione culturale, la partecipazione politica giovanile, quindi farà un excursus di quelle che sono state le lotte politiche intraprese dai giovani dagli anni 60 fino ad arrivare ai Maranza, quindi anche un'attenzione ai giovani, agli adolescenti e anche ai bambini, perché anche quest'anno sia a Porta Pratello che è per dopo tanti anni anche in Montagnola ci saranno i centri estivi e quindi anche tante attività per i bambini e anche per le famiglie, quindi anche un'attenzione a questo mondo.